Ingrid. Tommy russava al suo fianco. Era la loro ultima notte insieme. Per strano che fosse, Ingrid si sentiva indifferente. Niente rabbia, niente scrupoli di coscienza. Forse c'era una spiegazione biologica. L'uomo con cui aveva scelto di riprodursi, perché difendesse lei e i loro discendenti, l'aveva tradita. Aveva lasciato lei e Lovisa senza protezione. Il giorno dopo sarebbe morto per mano di un'altra donna. Ma non bastava. La sua fama di giornalista serio e impegnato sarebbe stata distrutta. Presto l'intera Svezia avrebbe saputo che patetico relitto guidava il principale tabloid del paese. Ingrid sospirò e si voltò dall'altra parte. Aveva bisogno di dormire. Il giorno dopo non ci sarebbe stato un attimo di tregua. E doveva alzarsi prima di Tommy per preparargli la colazione. Aveva chiesto a sua madre di tenerle Lovisa. Poi avrebbe passato la serata in un ristorante dove era sicura di essere notata. Così si sarebbe costruita un alibi, sia per l'omicidio che per la distruzione della reputazione di suo marito.